Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che guarda a quegli intellettuali che fecero grande la pedagogia italiana e non negli anni 60 e negli anni 70. Parliamo di maestri, semplici maestri che lavorando con aule e con i ragazzi hanno elaborato teorie e pratiche dell'educazione che ancora oggi sono all'apice della speculazione e dell'operatività del settore. Questi personaggi, Gianni Rodari, Bruno Ciari, Mario Lodi, Albertini, Alberto Manzi, Antonio Faiti e Don Milani, ci ricordano che non necessita essere plurilaureati alla Bocconi o essere presidenti di Banca Italia per avere il dono dell'esperienza, ma bisogna lavorare con una visione in testa, stando comunque dalla parte degli ultimi, senza dare nessuna priorità alle eccellenze o ai più bravi del primo banco. Cominciamo allora con Bruno Ciari, costruttore di un'educazione democratica, anti-autoritaria e anticonfessionale. La sua formazione si alimentò in particolare della lettura di Don Dewey, Céline Freinet, Antonio Gramsci, dei classici del marxismo. Il punto di partenza deweyano è lo stretto rapporto tra scuola e società. Secondo Ciari, infatti, l'apprendimento non è un processo intellettualistico individuale, ma risulta tanto più efficace quanto più comunitario e sociale. Sarà protagonista Ciari del movimento di cooperazione educativa, realtà ancora oggi operativa, e proprio con un esponente importante di questo movimento, Franco Lorenzoni, prendiamo qualche appunto su Bruno Ciari. Quando feci 3 mesi di tirocinio in una classe della periferia di Milano, la maestra che ebbi la fortuna di incontrare, che era del movimento di cooperazione educativa, aveva allora una seconda elementare, e mi disse questa frase che mi è rimasta impressa per sempre in tutto il mio insegnamento, dicendo: ma io in realtà quest'anno l'unica cosa che mi interessa è che i bambini capiscano la parola ipotesi. E poi mi spiegò che questa idea, diciamo, di dedicare un anno alla parola ipotesi le era venuta dalla lettura di questo libro di Bruno Ciari, che è Le nuove tecniche didattiche, che è un libro che innanzitutto va letto, va diffuso, perché la cosa che più colpisce è che veramente la sua aula era un campus, era un'aula dal punto di vista tecnologico estremamente avanzata. C'era il registratore, lavagna luminosa, proiettore, tipografia, macchina fotografica, la stampa, i cartoni animati fatti dai bambini, bottiglie, imbuti, materiali per l'apprendimento della matematica. Allora, quest'idea dell'aula laboratorio purtroppo è ancora lontanissima dalla pratica, dalle nostre aule delle scuole elementari. È troppo lontana. E stiamo attenti, perché quella era una tecnologia artigiana che aveva centrata sulla questione chiave, che era dare dignità al pensiero dei bambini, dare dignità alla loro capacità di ragionare, trovare tutti i modi per ravvivare il fuoco della conoscenza. E questo è un punto in chiave, perché la tecnologia non sostituisce, non rende più facile. La tecnologia usata da Bruno, per quello che ho potuto capire attraverso i suoi libri, è una tecnologia al servizio dello sforzo, del capire e dell'intelligenza dei ragazzi. Quindi qualcosa che è molto diverso dalla tecnologia che rende tutto facile e apparentemente tutto accessibile. Anzi, è quasi il suo contrario. E mi piace il fatto che lui usi tantissime volte nel suo libro, insomma l'ho riletto per questa occasione, usi tantissime volte la metafora del fuoco, dell'accendere. E c'è un'altra cosa che lui dice molto spesso: il problema della persistenza in una ricerca, che l'interesse sia duraturo. Faccio un esempio, così è tutto più chiaro. A un certo punto lui parla del vino. Perché il vino bolle? L'interrogativo è serio e importante. Il fermentare del vino si pone come un problema cui il maestro si deve guardar bene dal dare lì per lì una soluzione, che sarebbe difficilmente comprensibile e puramente verbalistica. Quindi inutile, anzi dannosa. Questo andrebbe messo bello in chiaro su tutte le nostre aule. Dare una spiegazione su un fenomeno a parole è dannoso. Si tratta invece di gettare olio su questa fiamma che si è accesa. L'educatore è quindi in grado, e ne ha il dovere, di incoraggiare, soffiare sulla fiammella dei primi sintomi di un interesse affinché diventi fuoco gagliardo. Allora, questa metafora del fuoco gagliardo, l'idea che una classe si trasforma in menti accese, che si pongono questioni, che ragionano, che vogliono capire e che sperimentano anche con le mani, è un punto fondante. Lui parla di tecniche didattiche ed è interessante perché fin dalla prima pagina del suo libro lui contrappone le tecniche al metodo. A lui interessa la costruzione di tante persone insieme che mettono insieme un sapere, una conoscenza, una cultura. E mi è piaciuta molto questa citazione di Gianni Rodari su Bruno Sciari, che era una persona capace di tenere insieme e sconfinare, perché la cosa interessante della sua approccio alla pedagogia è che è fortemente politico. C'era una maestra che io ho avuto del Movimento di Cooperazione Educativa che si chiamava Nora Giacobini, che un suo alunno, uno che l'aveva avuta come professoressa quando insegnava al liceo, poi lei insegnò alle medie, la chiamava partigiana dopo, per il suo spirito, diciamo, per il modo con cui intendeva la militanza educativa come una forma d'essere partigiani. Allora io penso che questo va rivendicato. Io penso che noi dobbiamo essere partigiani di una scuola dalla parte della Costituzione. Oggi è fondamentale questo, cioè scegliere. Un altro grande pedagogista, Freire, quando ricevette la laurea d'onore all'Università di Bologna, prese da parte un gruppetto di maestri del Movimento di Cooperazione Educativa e disse: ma voi da che parte state? È interessante questa parola, da che parte state? Quando si educa bisogna essere partigiani e stare da una parte. E da quale parte? Chiaramente dalla parte degli ultimi, di quelli che hanno più difficoltà, di quelli che la società da sola non renderebbe liberi. Allora, tutto l'insieme delle tecniche che Bruno ha elaborato, ha arricchito e ha cercato di diffondere anche quando ha fatto il lavoro politico, per esempio nella città di Bologna, è stata tecniche per la liberazione di intelligenze. E questo è importantissimo, perché noi sottovalutiamo in questo momento in Italia l'incredibile perdita di intelligenze. Cioè, i 2 milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano sono uno spreco di intelligenza impressionante. La dispersione scolastica è una dispersione che riguarda proprio il terreno su quale costruiamo la Repubblica, costruiamo il nostro convivere civile. E sappiamo quanto l'ignoranza faccia danni spaventosi anche alla democrazia e alla convivenza. Perché sempre il nodo è questo. Le grandi scoperte nel campo della pedagogia sono nate partendo dalla difesa dei più fragili. È successo con Maria Montessori, con Ovid de Croly, con Korjak. Cioè, i grandi innovatori della pedagogia del Novecento sono stati coloro che partendo dal cercare di risolvere come insegnare ai bambini con maggiori fragilità o con delle disabilità, si sono scoperte delle tecniche, appunto, o dei modi, insomma, di presentare la conoscenza, che sono state ottime per tutti i bambini, tutti i ragazzi. Allora, oggi siamo in presenza di classi sempre più disomogenee. La scommessa culturale, educativa e politica è dire: in classi disomogenee si impara di più, si impara meglio. Cioè, bisogna rompere l'orrore dell'apartheid educativa, l'orrore della fuga bianca dalle scuole con troppi stranieri che avviene in grandi città del nord. Perché il nodo è questo, cioè dire: se siamo diversi, se le nostre diversità comportano una grande fatica per noi insegnanti, naturalmente, però quelle classi sono le classi che stanno costruendo la cultura della convivenza, la cultura del futuro. Su questo Bruno c'ha ancora tanto da dirci. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà. Dopo Bruno Ciara incontriamo la figura di Mario Lodi, maestro di Piadena del Cremonese. Anche lui attraverso un periodo di esperienze, incontri, dibattiti e seminari nel movimento di cooperazione educativa, che ogni anno nel convegno nazionale si traducevano in una sintesi pedagogica. Con i bambini e per i bambini lavora in aula e produce pensiero pedagogico, sintetizzato in testi quali Il paese sbagliato. Spicca anche nella letteratura per l'infanzia con il suo CP, racconto che ha attraversato generazioni di fanciulli. Il prossimo anno si celebrerà allora il centenario della sua nascita e già un comitato promotore si prepara ad incontri, seminari e mostre itineranti, proprio perché quella testimonianza di vita professionale è assolutamente valida ancora oggi. Ascoltiamo allora qualche nota dal presidente del comitato, Francesco Tonucci, e poi entriamo in una classe col maestro Mario Lodi. Mario mi ha insegnato cosa significa far scuola e come mi ha dato gli elementi fondamentali che sto utilizzando in questi anni per parlare ad altri maestri in vari paesi del mondo. Quando Mario morì, il presidente del Consiglio di allora lo definì un piccolo maestro che ha fatto grande la scuola italiana. Mi piacerebbe che ragionassimo insieme su perché e quanto Mario è stato invece un grande maestro e perché non ha potuto fare grande la scuola italiana. Vorrei limitarmi a tre citazioni, a tre affermazioni di Mario, che spero possano essere come tre piste da sviluppare. Una, ma nella sua forma originale, era un intervento che lui ha fatto al convegno di Alma-Ata in Unione Sovietica prima che cadesse il muro di Berlino nel 76, inizia la sua relazione con queste parole: il bambino non è proprietà dei genitori, né della scuola né dello Stato. Quando nasce ha diritto alla felicità. Un vero manifesto dell'educazione, della libertà dei bambini, del loro diritto a sviluppare ciascuno le proprie attitudini e non le aspettative della famiglia, della scuola o della società. Al Vo, una frazione di Piadena, da quasi 30 anni ormai, lavora Mario Lodi, uno dei maestri di scuola che di più ha contribuito a sperimentare, a far conoscere la necessità che l'insegnamento, l'apprendimento, partano dal bambino e quindi dal suo ambiente, dalle cose che conosce, che gli sono vicine e care. Per descrivervi l'attività di Lodi e dei suoi ragazzi, siamo entrati, un giorno qualsiasi, nell'aula della classe quarta, nella scuola elementare Al Vo di Piadena, ed abbiamo registrato ciò che vi accadeva. Cioè, noi ci siamo costituiti quest'anno come cooperativa, cioè i bambini hanno costituito una cooperativa. Perciò abbiamo bisogno di decisioni, abbiamo bisogno continuamente di discutere che cosa fare con i soldi che abbiamo, quali problemi affrontare, che cosa realizzare. E tutti i giorni abbiamo spese, entrate da segnare. È chiaro, no, che questo implica una quantità di problemi matematici, calcolo anche di percentuali, continuamente. Ma non è solo matematica. È soprattutto una visione della vita che continua, che si progetta, che si porta avanti insieme, prendendo degli impegni. Questo mettere il bambino in rapporto con un impegno, con una precisione, ecco, e soprattutto il rendere i conti, una cosa che in Italia oggi si dovrebbe imparare fin dai banchi della scuola, no? A quelli che rappresentano, diciamo, la base, insomma, no? Ecco, la comunità, ecco, mi pare una cosa importante, perché è veramente un valore. Febbraio 23. Acquisto puntine. Lire 150 in uscita. Febbraio 28. Acquisto 100 matrici. lire 16.240. Poi abbiamo una fattura. Quanto costano le matrici e l'inchiostro? 14.500. Ecco, perché è segnato 16? Perché c'è dentro l'IVA del 12% con 1.740 lire. A lunedì vai per Ucher, l'urla ore no del somester, perché l'uran paga anticipa, bella se vuoi venir con me a ballar, te sentendo tu mai e mei mai me sturde. Per cui, sa te ne verrebbe in carami e vada via i pe, ben già dervi spurte il pan più per arpa, va, va, va. In questo laboratorio di Piadena nasce anche il collettivo, il duo di Piadena, un collettivo musicale che fu importantissimo per questo recupero delle musiche popolari di Lotta, che poi fu protagonista a sua volta del famoso Ci ragione canto degli anni 60. Evidentemente il maestro Gianni Rodari non è certo sconosciuta questa trasmissione e non poteva mancare in questo pantheon di bravi maestri. Ascoltiamo l'introduzione a Rodari del Pioniere di Rossella Greco, autrice di Educare senza annoiare, Appassionare senza corrompere, Gianni Rodari, la direzione del Pioniere dal 50 al 53. Rossella Greco, e quanto Rodari si è formato lavorando su questo giornale, ovvero la costruzione della sua pedagogia è nata anche attraverso la sperimentazione con i bambini attraverso il Pioniere. Devo dire che a mio avviso il Pioniere rappresenta una palestra importante sia per la sua scrittura sia per la edificazione proprio di tutta la poetica e anche quella pedagogia rodariana di cui oggi tanto ha ragione ovviamente si parla. C'è un cantuccio speciale che è quello dell'ufficio postale da cui Rodari risponde direttamente ai bambini con toni ovviamente sempre divertenti, ironici, però con grande serietà. Cioè, secondo me tutta la sua poetica si muove entro questi due fuochi in un certo qual modo, sorriso, un'ironia, ma anche una grande serietà, perché ai bambini bisogna rivolgersi con serietà. Nel senso che l'infanzia per lui è una questione da trattare non con sufficienza. Se un merito va a Rodari è sicuramente quello di aver completamente capovolto la prospettiva del mondo, no? Nel senso, da una prospettiva adultocentrica, che anche altri che scrivevano nel passato di bambini o comunque per bambini lo facevano comunque da una prospettiva adultocentrica. Con Rodari questa prospettiva è completamente rovesciata, quindi i bambini sono chiamati in causa. Non dimentichiamo una cosa che a me ha colpito molto: le gare di solidarietà che partono proprio dalle pagine del Pioniere, per ad esempio per la guerra di Corea. È su quelle pagine che Rodari racconta ai bambini di un mondo, che delle storture del mondo, racconta anche delle ingiustizie, delle infanzie. Penso ad esempio ai bambini tracomatosi di Napoli, penso ai bambini venduti di Cassino, insomma delle realtà che riguardavano l'infanzia, infanzie meno fortunate, e di cui tutti i bambini più fortunati avevano il diritto ma anche il dovere di essere consapevoli. Rodari diceva che non sono delle parole da non dire ai bambini, c'è una poesia bellissima che parla di parole difficili. Cioè, dobbiamo imparare, dice ai bambini, imparate a fare le cose difficili, ma imparate anche a dire le cose difficili. Cioè, ogni parola comunque schiude un angolo di mondo ed è necessario che del mondo i bambini un'idea se la facciano, e prima cominciano a farla meglio è, sostanzialmente. Io penso che si debba cercare di non di parlare come il bambino, ma di parlare come il mondo di oggi. Il mondo parla oggi al bambino non solo attraverso le parole dei genitori, ma parla attraverso le immagini, attraverso le macchine, attraverso tutto quello che anima il mondo di oggi. Bisogna trasformare tutto questo in parole se si vuole fare un libro, e non bamboleggiando, ma semmai un gradino più in su, perché al bambino piace salire un po'. Quando è molto piccolo e gioca a spostare i mobili, lui vuole spostare subito il tavolo che è più pesante, non si accontenta di spostare il seggiolino che è piccolo. Perciò il linguaggio è una cosa che deve farlo crescere, fare cose nuove. E con questa apparente semplicità, che come tutte le semplicità è tremendamente difficile da fare, poi Gianni Rodari costruirà il suo capolavoro, La grammatica della fantasia, un saggio che rimane una pietra miliare nella storia della pedagogia, ancora oggi. La grammatica della fantasia comunque nacque da un'esperienza nella scuola di Reggio Emilia, dove stava un altro bravo maestro, Loris Malaguzzi. E proprio in questo spezzone, non perfetto nell'audio ma interessante nella storia, Loris Malaguzzi e Gianni Rodari presentano ai ragazzi la settimana di sperimentazione della scuola, che poi appunto sarà l'attività base della stessa grammatica della fantasia. Saremo uniti per 5 giorni. La stessa ora ci ritroveremo qui e fino a venerdì lavoreremo attorno a questo grande tema, credo di grande originalità. Bene, voi non vi dovete aspettare una teoria completa, un sistema teorico. Io ho dei materiali su cui ho lavorato, posso dire da 30 anni. Ha scritto una volta il poeta tedesco Novalis, che è morto nel 1801, quindi anche lui è uno abbastanza preistorico. Ha scritto così: se noi avessimo una fantastica come abbiamo una logica, avremmo scoperto l'arte di inventare. Dunque Loris Malaguzzi, un bravo maestro che ha incontrato il mondo dell'infanzia già nell'immediato dopoguerra. Ce ne parla Claudia Giudici di Reggio Children, che attualmente è il garante per l'infanzia e l'adolescenza di Reggio Emilia. E Claudia Giudici comincia proprio con una poesia dello stesso Loris Malaguzzi. Invece il cento c'è. Il bambino è fatto di cento, il bambino ha cento lingue, cento mani, cento pensieri, cento modi di pensare, di giocare e di parlare, cento, sempre cento, modi di ascoltare, di stupire, di amare, cento allegrie per cantare e capire, cento mondi da scoprire, cento mondi da inventare, cento mondi da sognare. Il bambino ha cento lingue e poi cento, cento, cento, ma gliene rubano 99. La scuola e la cultura gli separano la testa dal corpo. Gli dicono di pensare senza mani, di fare senza testa, di ascoltare e di non parlare, di capire senza allegrie, di amare e di stupirsi solo a Pasqua e a Natale. Gli dicono di scoprire il mondo che già c'è e di cento gliene rubano 99. Gli dicono che il gioco e il lavoro, la realtà e la fantasia, la scienza e l'immaginazione, il cielo e la terra, la ragione e il sogno sono cose che non stanno insieme. Gli dicono insomma che il cento non c'è. Il bambino dice invece il cento c'è. L'esperienza delle scuole dell'infanzia, dei nidi, dei servizi per la prima infanzia del comune di Reggio inizia nell'immediato dopoguerra, quando in una frazione del comune di Reggio un gruppo di cittadini, dopo il termine di una guerra, quindi di un'esperienza molto dolorosa, decidono di ricostruire il tessuto sociale, culturale, politico della comunità, costruendo una scuola per i bambini più piccoli, ed è la scuola 25 aprile di Villacella, che è un luogo per noi simbolico, perché il professor Malaguzzi, andando con la bicicletta, lui era un giovane maestro, incontrò questo gruppo di cittadini e prese parte alla costruzione di questa esperienza educativa. Innanzitutto il professor Malaguzzi era un intellettuale, quindi un uomo molto colto, molto curioso e come dire, onnivoro di letture e conoscenze. Era però anche un grande conoscitore delle teorie psicologiche e pedagogiche. E i riferimenti iniziali che in Italia in quegli anni, negli anni 50 e 60, erano estremamente innovativi, Piaget, Vygotsky, Dewey, ora letture, come dire, note, ma che allora non c'erano nemmeno le traduzioni in Italia, mentre erano riferimenti importanti per il professor Malaguzzi, e lui frequentava anche seminari a Ginevra, quindi al gruppo di Ginevra dove appunto c'era Piaget, quindi sono stati riferimenti importanti, oltre ad avere relazioni anche con di quel tempo, pedagogisti italiani, il pensiero di Maria Montessori, ma delle sorelle Agazzi, di Bruno Ciari, c'è tutto il movimento attivistico dell'educazione, sono stati riferimenti importanti. La mente del bambino e dell'essere umano è multidisciplinare, e quindi se, come fece e faceva il professor Malaguzzi, io osservo il bambino mentre conosce, il bambino mi restituisce questo modo di conoscere. Quindi, come educatore, io posso espandere questo, che è un modo che già appartiene al bambino, da qui l'intuizione di avere quindi anche i linguaggi artistici, i linguaggi espressivi, che nella scuola tradizionalmente non sono presenti, all'interno della didattica quotidiana. Perché l'altro aspetto importante è che la figura dell'atelierista non era un artista, non è un artista che entra e fa attività di laboratorio, ma è parte del gruppo di lavoro, lavora con le insegnanti nella didattica quotidiana. E questo mi sembra un punto molto importante, che porta anche a un'idea di spazio e di ambiente educativo, che visitando i nostri servizi, che sono anche molto differenti, ma che hanno alcune caratteristiche, qualità, valori, quello di essere luoghi e spazi relazionali, cioè che possono consentire di accogliere e di costruire relazioni. Sono trasparenti, devono consentire agli abitanti di cogliere le diverse prospettive, i diversi punti di vista. Devono essere ambienti che consentono al bambino una molteplicità e pluralità di esperienze sensoriali. Sono ambienti che hanno una, come dire, sono laboratori sensoriali nei quali i bambini e gli adulti insieme possono costruire delle avventure di conoscenza. Sono ambienti che hanno nell'estetica una qualità importante, ma un'estetica, come diceva Bateson, come elemento di qualità della conoscenza, cioè la struttura che connette. Quindi questa è sempre una tensione, un elemento particolarmente presente nei nostri ambienti. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Uh-huh.